giorno sia, non sai, mentre vai, dove adesso non mi vedi, dovunque sei, sarai, dentro i miei sogni ormai. Muovo le ali di nuovo, riprovando a non cadere da solo nel vuoto, per cominciare a diventare così come è, che avrei dovuto, solo se avessi comunque davvero voluto. Tutte le cose che vedo, così nuove che alle volte nemmeno ci credo, e ho paura che il calore di un raggio di sole che ho sopra la testa sciolga le ali di cera e mi abbagli la vista. E ora non starmi a sentire, tanto guardo anche paura di farti capire. Sono bene o male, solo e soltanto parole, come gocce che non cambiano il livello del mare, non scende e non sale, sotto qualcosa si muove. Sono tutte quelle voci che tornano nuove e tornano più forti in un giorno come gli altri. Muovo le ali di nuovo verso un posto nuovo. Muovo le ali di nuovo perché cerco un posto nuovo. Muovo le ali di nuovo verso un posto nuovo, diverso. Dentro ai miei sogni ormai cosa c'è, cosa resta? Soltanto i mostri che ho dentro la testa. Non era oro quello che brillava, non era eterno quello che restava, non era amore neanche quello che mi amava, eppure mi sembrava la sola cosa sicura che avevo. Ma mi sveglio lentamente, non può piovere per sempre. Nessuno ti dice mai niente, infatti a me nessuno m'ha detto mai niente. E qual è veramente il problema? Rimanere da soli o cambiare sistema? E se una cosa importante vale meno di zero, e una cazzata qualunque diventa un delirio, io spingo e vado avanti in questo giorno come tanti. Muovo le ali di nuovo verso un posto nuovo. Muovo le ali di nuovo perché cerco un posto nuovo. Muovo le ali di nuovo verso un posto nuovo, diverso. Vai Fibra. Ah, sono convinto che se avessi dato rap a te, a quest'ora di sicuro non facevo rap. A quest'ora di sicuro non avevo niente, stavo fermo ad aspettare come tanta gente. Non avrei avuto modo di arrivare primo e nemmeno di cantare con Tiro Mancino. Sognavo di passare in radio, ero un ragazzino. Oggi invece sto al telefono con Albertino. Guarda frate quanto è bella la vita da qui, non mi giudicare se non la vedi così. E tocca dire sempre sì ma falla finita, non odiare il lunedì, odia la tua vita. Dovresti andare più in TV, no non sono il tipo. Ancora gente che mi dice io non ti ho capito. Muovo le ali verso un posto nuovo e te lo dico, non lascio nulla amico, resta la musica che gira all'infinito. Ma io non ho finito, tornavo dallo studio tardi, ero sfinito. Questo malessere che scrivo non è mai finto, ho fatto sempre il tifo per chi non ha mai vinto. Persone sole che aspettano il sole, finisci i soldi, finisce l'amore. Ricordo lavoravo 9 ore per guadagnare tempo e volare altrove. E adesso che son qui lei mi vuole, telefoni raccontano storie, in testa immagini distorte, ci son passato 1000 volte. Vogliamo tutti altro, non dire altro, andare in alto o mani in alto. Dammi tutto ciò che hai e poi vieni un lampo, ci pensavo ogni tanto. La strada ora va dritta e non c'è più nessuno, la macchina che lascia nuvole di fumo. Sinceramente pensavo d'essere più furbo, penso troppo al passato e mica vengo dal futuro.